Con 402 voti a favore, 21 contrari e 19 astenuti, il Parlamento ucraino l'8 dicembre ha approvato il pacchetto di modifica alla legge costituzionale e alla legge elettorale. Secondo le modifiche approvate, il governo dipenderà adesso non più dal capo dello Stato, ma dal Parlamento, la cui durata in carica è prolungata da 4 a 5 anni. Siamo in collegamento telefonico con Mikhailo Per, un giornalista che ha lavorato per diversi anni a Radio Ombre di Leopoli. Magari se ci vuoi cortesemente pronunciare il nome della radio in ucraino. Questo si chiama Radio Lvivska Chvilja, che significa il Radio Ombra di Leopoli. Bene, Mikhailo, allora partiamo da questa decisione del Parlamento. Che significato ha questa decisione in vista del secondo ballottaggio? Quali sono state le reazioni a partire da ciò che tu hai potuto leggere sulla vostra stampa locale? Già abbiamo letto nei giornali ucraini che questo candidato Viktor Yushchenko adesso sta lavorando per una commissione parlamentare, è una commissione costituzionale che lavorerà su questo nuovo pacchetto che il Parlamento già ha proclamato. Tutta stampa in Ucraina che sta in opposizione o questa stampa che sta collaborando con Stato hanno detto che questo è un buon passo tra opposizione anche insieme con il governo. Collaborare insieme anche per cercare una nuova strada per riuscire da questa crisi che è stata in Ucraina. Adesso il giornale ucraino, Ukrainska Pravda, che significa la verità ucraina, fa un'analisi su questa tutta situazione che è in Ucraina e dà risposta che adesso. E grazie a questi tutti gente che uscenti dal caso è stati nel piazza dell'indipendenza a Kiev ha fatto un grande passo per la democrazia ucraina. Dopo questi 13 o 14 anni che la tutta gente come scrive questo giornale Ukrainska Pravda è uscita dalle case dopo ha fatto una grande manifestazione nel tutti i città ucraini. Buon segno che Ucraina ci vuole stare insieme con l'Europa e vuole questi cambiamenti politici, costituzionali, economici per diventare più vicini con comunità europea. Come si sta comportando la piazza all'indomani delle decisioni del Parlamento? Opposizione capeggiata dal Viktor Yushchenko ha deciso di sospendere le proteste di piazza al centro di Kiev dopo che il Parlamento ha approvato questo il pacchetto anticrisi. Adesso dobbiamo concentrarci sul processo elettorale. La gente deve garantire le vittorie di Yushchenko tramite il voto. Così ha dichiarato Yulia Tymoshenko, che prende il secondo posto dell'opposizione. E dopo che anche una persona molto forte nell'opposizione ucraina. Dopo altro dice deputato Oleg Rybachuk che è logico a questo punto sospendere il picchiettaggio dei palazzi governativi di Kiev anche per evitare che la crisi economica innescata dal braccio di ferro tra Yushchenko e Yanukovych. Allora, queste informazioni provengono dal giornale Ukrainska Pravda, anche dalla nostra agenzia di informazione che si chiama UNIAN, una informazione nazionale di informazione ucraina, anche sul sito website Razom.info, che è un sito informativo dal partito Nostra Ucraina di Viktor Yushchenko. Anche dal giornale che provengono da Leopoli, un giornale che si chiama Vysokiy Zamok, altro giornale che si chiama Lvivska Gazeta, e anche altro giornale che si chiama Postup, un giornale nazionale che proviene da Lviv. Ecco, Mikhailo, nei giorni precedenti al primo ballottaggio, anche in occasione appunto delle elezioni, la stampa ucraina, in particolare le televisioni, si erano schierate a favore di Yanukovych. Adesso che il Parlamento ha preso una posizione così importante, anche nei confronti di quello che poi avverrà in vista del secondo ballottaggio, come si sta comportando la stampa, la televisione? È cambiato qualcosa? La situazione è cambiata totalmente. Per esempio, Ieri ho letto un articolo del direttore generale della televisione ucraina, che si chiama un canale che si chiama 1+1, signor Rodnianski, anche lui sta lavorando a Mosca. Allora, lui sono tornato da Mosca a Kiev e ha fatto un'intervista e ha detto che io ho detto o noi chiudiamo il nostro canale o facciamo la verità, perché prima lui spiegava che qualcuno dal governo ucraino ha parlato con lui e ha detto che voi dovete dire solo questa informazione che noi prepariamo, e così purtroppo un canale nazionale che si chiama 1+1 ha dato informazione per tutti, non è obiettiva, però una informazione da cosiddetti temnik, cioè significa materiali preparati sotto tavola. Questo Rodnianski è tornato e ha detto che fino ad oggi noi lavoriamo e prepariamo una informazione giusta preparata da noi o chiudiamo la nostra televisione. E anche altri giornali che ho visto ha fatto stessa cosa, che dicono che cambiano adesso politica di informazione. Anche io ho letto per esempio oggi che un canale che si chiama Novi Canal, cioè un nuovo canale che chiude il programma di informazione perché durante questo periodo lavorava solo sotto il Stato. Queste preparazioni di elezioni, ci sono tanti canali ucraini che hanno lavorato solo per Yanukovych. Dopo questi giorni di quando tutta gente è uscita dalle piazze, loro hanno capito che così non possono lavorare di più, allora loro hanno cambiato la politica di proprio servizio. Come si stanno preparando i candidati al secondo ballottaggio? Prima cosa che è molto importante, che la Commissione Centrale sulle Elezioni Ucraina ha cambiato totalmente. Ci sono tutti i nuovi membri nella questa commissione e il Parlamento ucraino per ogni persona ha dato sua voce per approvare queste persone nella nuova commissione per elezioni. Seconda cosa, loro anche hanno cambiato il capo di questa commissione, perché il prima Kivalu, che è una persona che fa parte proprio del presidente ucraino Leonid Kuchma, è solo adesso che il Parlamento ha dato voce per un nuovo capo di questa commissione, per proprio altra persona che si chiama Davidovich. Anche comunità europea, OSCE, Stati Uniti già hanno mandato in Ucraina membri per commissione per queste elezioni che saranno. È molto interessante che Yanukovych, che è altro candidato dalla parte del governo, adesso già non è vice premier ministro, cioè non ha forze di governo. Dopo lui ha cambiato anche capo suo ufficio che sta preparando queste elezioni. Adesso il nuovo capo ufficio è un ex parlamentario di Viktor Yushchenko, che si chiama Taras Chornovil. Solo adesso che si è cominciata una normale battaglia tra due candidati, tra candidato di opposizione Viktor Yushchenko e tra candidato di governo Viktor Yanukovych. E questo significa che solo quando tutta gente è uscita dalla piazza, dopo tutta questa rivoluzione di pomarance, solo adesso si comincia un clima normale nelle elezioni in Ucraina.